Molto tempo fa, nel cuore dell'antico regno di Velmora, i popoli prosperavano sotto la protezione del nucleo di Eltar. Questa sorgente d'armonia custodiva l'equilibrio tra i quattro elementi primordiali: terra, acqua, fuoco e aria. Il nucleo donava vita, abbondanza e pace. Ma con il passare dei secoli, sempre più regni iniziarono a bramarne il potere. Temendo che una sola mano potesse soggiogare il mondo, gli ultimi saggi del regno di Velmora decisero di frammentarne l'essenza. Forgiarono così le quattro chiavi di Eltar, ognuna legata a Milena a un elemento. Le nascosero in luoghi remoti e li protessero con prove mortali. Ma non fu abbastanza. Oggi, forze oscure e spietate, guidate dal crudele dominio di Kaelor, hanno assalito la capitale di Velmora. I loro eserciti hanno devastato ogni cosa al loro passaggio e nella confusione il nucleo è stato disattivato. La sua energia si è dispersa. Ora, senza il nucleo, la nostra terra appassisce, i raccolti si corrompono, le acque si prosciugano, i venti tacciono e la terra si lacera.